e all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. E allora leggiamole queste notizie nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Sono le 7:19 adesso, in punto. Siamo il segnale orario noi. Che dice De Luca? Niente? Niente dice De Luca, vabbè. Niente, De Luca solo alle 6:30 del mattino si manifesta. Buffonate. Eccolo lì. Queste sono buffonate. Va bene, presidente, prendiamo atto. Allora, dai. Che dire? È lo Chierichetto. Chierichetto. Ah. Dai, andiamo a leggere i giornali, va. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Venerdì 21 aprile, per la precisione, il Natale di Roma. Ah, ma è festa a Roma oggi? Fatemi capire. No, è così, è un dubbio che mi assale sempre. Allora, che dire, le aperture, no, a Milano no, grazie Peter, ti ringrazio per la segnalazione, no, a Milano no, neanche a Venezia, se è il Natale di Roma. Comunque, il Sole 24 Ore, l'apertura, tassi, BCE, l'Europa frena i falchi, questo è il titolo, ma poi ovviamente la vicenda di Parigi con il nuovo attentato terroristico e l'apertura per molti quotidiani. Tra l'altro a due giorni dal primo turno delle presidenziali, per il Corriere della Sera, attacco a Parigi, terrore sul voto, per Repubblica, Parigi, il terrore ISIS sul voto, La Stampa, attacco a Parigi, paura sul voto, Il Messaggero, terrore sulle elezioni francesi, per il Manifesto, spari sul voto e il Giorno, sangue sul voto, come vedete. Tutti mettono la, ovviamente, coincidenza con le presidenziali e il terrorismo. Mortale confusione è il titolo invece di Avvenire. Oggi devo dire giornali con titoli molto allegri. Primo sia la legge sulle dichiarazioni anticipate tra forzatura, ambiguità e rischi di contenzioso. Sempre allegria per Libero, sentenza del Tribunale di Ivrea, il telefonino causa il tumore. E il Giornale, l'ultima dei magistrati, il cellulare causa il cancro. Molto bene, buon venerdì a tutti signori. In tutto questo voglio proprio partire dalle notizie, per la verità le notizie più fresche poi le diamo noi qui a Radio 24, perché i giornali ovviamente sono stati stampati nella tarda serata o nelle prime ore della notte, quando sì, la cronaca racconta, leggo da Stefano Montefiori, pagina 2 del Corriere della Sera, quello che è successo a Parigi, sugli Champs-Élysées. Affollati come al solito ieri sera, negozi, ristoranti aperti, cinema, molti turisti e parigini che passeggiano su quella che i francesi amano chiamare l'avenue più bella del mondo. 300.000 persone la frequentano ogni giorno, il perfetto bersaglio per un attentato terroristico. E infatti, attorno alle 21, una vecchia Audi 80 grigia si ferma dietro a un furgone della polizia. Alcuni agenti sono dentro al furgone, altri poliziotti armati camminano sul marciapiede. Un uomo armato di Kalashnikov scende dall'auto e spara immediatamente da pochi metri contro il furgone. Uccide un agente, ne ferisce gravemente altri due, poi si mette a correre e spara in direzione dei poliziotti sul marciapiede che reagiscono con prontezza e riescono a ucciderlo. Una turista rimane ferita al ginocchio. Questa è la dinamica raccontata ai giornali. Ora, chi sia la persona? Le autorità francesi hanno detto abbiamo individuato l'identità del killer, non viene però svelata per non compromettere le indagini in corso. Questo leggo dalle agenzie della notte di questa mattina, come abbiamo sentito anche dal giornale radio. Tra l'altro si parla di un secondo attentatore che sarebbe in fuga e l'ultima notizia che si è avuta è che l'auto dell'assalitore, secondo il quotidiano Le Parisien, è intestata, almeno questo nei documenti, il libretto di circolazione, quello che è in Italia, a Karim C. C. puntato, 39 anni, bisogna anche capire se è anche la persona che ha colpito. Per la verità, sul Corriere della Sera ieri c'era un'altra identità, si chiamerebbe Youssef El Osri, la persona che ha colpito. In ogni caso, l'attentato è di matrice islamica, questo almeno secondo le autorità, secondo la rivendicazione dell'ISIS, insomma un qualcosa che abbiamo già visto. Però i dettagli ovviamente ve li daremo nel corso della giornata, se le agenzie li diffonderanno. Certo, nuovamente con la paura si cambiano anche gli equilibri, come è l'analisi di Marina Valensise a pagina 3 del Messaggero. Le Pen e Fillon si presentano come candidati della linea dura contro l'Islam. Tra l'altro Fillon, che ieri ha detto sospendiamo la campagna, ma la domanda che corre con malcelato cinismo sulla bocca di tutti è: qual è il candidato che può avvantaggiarsi, se non dell'attentato, per ora sventato, in parte neutralizzato, oddio c'è un poliziotto morto, dell'allerta continua, della minaccia che fomenta l'inquietudine nell'opinione pubblica? Ecco, Marina Valensise si chiede questo. Lo scenario è che certamente questo influirà sul voto, bisogna capire come e in che senso e con quali candidati che possono avvantaggiarsi. È inutile negarlo, nel cinismo della politica c'è anche questo, o come anche può orientare questa paura il voto dei francesi domenica al primo turno delle presidenziali. In tutto questo, se vogliamo rimanere sul tema estero, c'è da segnalare che Gentiloni ha incontrato Trump. Primo incontro alla Casa Bianca per il premio Gentiloni e il presidente americano, e tutti i giornali fanno notare che è la Libia il punto sul quale non c'è stata grande intesa. Per il resto le solite grandi frasi per Trump: siete un paese meraviglioso, siete straordinari, non vedo l'ora di arrivare in Sicilia. Meno male, non i soliti apprezzamenti sul cibo italiano, non lo so, probabilmente anche quello. Ma il nodo, la questione, come raccontano i giornali, è che l'America non vuole un ruolo diretto in Libia. E questo è un punto sul quale Gentiloni ha cercato di chiamare fermamente Trump alle responsabilità americane. Ma, come racconta Carmelo Lo Papa, pagina 6 di Repubblica, al seguito ovviamente di Paolo Gentiloni per questa visita, c'è una mezza presa di distanza dal coinvolgimento diretto americano nella crisi in Libia. È il nodo più delicato per l'Italia, anche, ricordate, con tutti gli immigrati che partono da lì. E il presidente americano su questo è tranciante. Non vedo un ruolo degli Stati Uniti. Ne abbiamo dappertutto, sono già impegnati su più fronti a tutti i livelli contro l'ISIS. Forse è un riferimento al solo impegno militare, l'ennesimo che Washington non intende affrontare. Sta di fatto che dentro a porte chiuse, stando a quanto trapela dagli staff, i due terzi del tempo, cioè 50 minuti di colloquio, sono stati assorbiti proprio dal precario equilibrio in Libia. Trump chiede chiarimenti sulle forze in campo, sul governo di al-Sarraj che noi sosteniamo, sui flussi migratori, e non è un caso se proprio nel giorno dell'incontro col premier italiano dagli ambienti dell'amministrazione filtra la notizia che potrebbe segnare una svolta per costruire un minimo di stabilità in Libia. Cioè il generale libico Haftar e il premier dell'accordo nazionale al-Sarraj sono stati invitati per una visita ufficiale a Washington, probabilmente a giugno, per trovare una soluzione alla crisi del paese. Questo retroscena a più ampio sviluppo sul Corriere della Sera. L'incontro tra Sarraj e Haftar, cioè i due grandi leader della Libia, che potrebbero in qualche modo incontrarsi proprio a giugno a Washington. Le diplomazie sono al lavoro su questo faccia a faccia, racconta Marco Galluzzo, pagina 6 del Corriere della Sera, e questo potrebbe in qualche modo porre un argine anche alla mancanza di controllo del territorio in Libia. È davvero un'area strategica per noi, inutile negarlo, no? Da lì partono anche molti, se non tutti, gli immigrati che arrivano dall'Africa. Oh, ma veniamo alle cose italiane. Voglio subito saltare, prima della pubblicità, sul tema dell'articolo che mi fa pizzore della giornata. L'articolo da Mani sul Volante. Io quando l'ho letto sono rimasto un po' colpito. Cari amici romani, eccolo qua. Intanto mi dicono che oggi a Roma si lavora. Bene, sono felice per voi. A Roma non è festa. Bene, neanche a Roma è festa. Va bene, bravi. Neanche a Roma, neanche a Milano per il Natale di Roma. Guarda, tre ascoltatori subito hanno detto: a Roma si lavora. Va bene, ma a Roma che succede? È arrivato il nuovo direttore generale dell'ATAC, Bruno Rota, 62 anni, è arrivato dall'ATM, quindi dall'azienda dei trasporti municipalizzati di Milano, milanese, arriva a Roma. come è stato accolto 3 guardie del corpo e il consiglio non usi la mail. Mi raccomando. Questo racconta Federico Fubini a pagina 13 del Corriere della Sera. Ma 3 guardie del corpo, cioè non per girare per Roma, dici 3 guardie del corpo, no! 3 guardie del corpo per tutelarlo all'interno dell'azienda. Cioè fuori è libero di muoversi come vuole, ma quello che non aveva previsto il manager è che ha trovato, varcando l'ingresso il primo giorno di lavoro all'ATAC, 3 guardie del corpo all'atrio, tutte per lui. Non per proteggerlo quando è strada a Roma. Negli spazi aperti può muoversi in libertà, Rota, e del resto conosce la capitale da quando negli anni 80 lavorò all'IRI con Prodi. No, il compito delle guardie del corpo dell'ATAC, di per sé vagamente intimidatorio, è coprire le spalle al direttore generale mentre questi incede nei corridoi dell'azienda, entra in ascensore, parla coi dirigenti. È certo che qualcuno a Roma deve essere disposto a molto pur di proteggere lo status quo. Ogni anno l'ATAC assegna all'esterno senza alcuna gara d'appalto né trasparenza contratti di fornitura di beni e servizi per circa 200 milioni di euro, pulizie, divise d'ordinanza, vigilanza affidata a un pool di società esterne. Ce n'è abbastanza perché un capo d'azienda originario di Domodossola si senta un po' come il capitano Bellodi, l'ufficiale dei carabinieri del giorno della civetta di Leonardo Sciascia, sbarcato in Sicilia da Parma. 3 guardie del corpo e soprattutto il consiglio, mi raccomando, non usi la mail aziendale, non usi la mail aziendale, come dire, ci sono occhi indiscreti che guardano. Eccolo qua, il primo giorno di Rota, neo dirigente all'ATAC, scortato in ufficio e non usi la mail. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, uscicchignacchi da bottiglie dell'informazione. Quella roba lì, sono sicuro e certo che sia giusto così. Allora, cari ascoltatori, alle 7:34 minuti continuiamo nella lettura dei giornali con quello che è successo in Italia. E in Italia ieri c'è stato un giallo politico. Il giallo politico in Consiglio dei Ministri è che è sparito un articolo, l'articolo 2 del Codice degli Appalti, o meglio il comma 2, e questo comma 2 di fatto ha tolto i poteri all'Autorità Nazionale Anticorruzione di Cantone. Poi ovviamente, e non si capisce bene chi sia la manina che ha tolto questo comma, ovviamente quando è uscito il codice degli appalti così Cantone se n'è accorto, sdegno, telefonate al Premier, poi è stato tutto modificato, nel senso il dietro front, scoppia il caso Cantone. E questa è un po' la notizia politica del giorno. Meno poteri a Cantone, poi il dietro front. Questo è il titolo di pagina 8 del Corriere della Sera. Il CDM, cioè il Consiglio dei Ministri, toglie poteri all'ANAC, poi fa dietro front, li riavrà. Scontro sulla mano politica. Questo è il titolo di Repubblica a pagina 10. Cosa è successo? Beh, leggendo i giornali non è che si capisca bene la ricostruzione. Goffredo De Marchis a pagina 10 della Repubblica. Il governo cancella il potere dell'autorità anticorruzione di bloccare preventivamente un appalto sospetto. Il suo capo Cantone reagisce, si dice esterrefatto, telefona Gentiloni che è in trasferta a Washington da Trump e in serata Palazzo Chigi corregge la rotta dicendo sarà posto rimedio in Parlamento e lo faremo in maniera inequivocabile. Tutto ruota intorno alla cancellazione di un comma del codice degli appalti. Chi ha promosso questo sbianchettamento del comma? La scelta sarebbe stata discussa e approvata nel pre-consiglio dei ministri, riunione degli Sherpa, cioè i collaboratori che raduna i capi dei settori legislativi di tutti i ministeri, e il pre-consiglio è gestito da Maria Elena Boschi. In quella sede il Ministero delle Infrastrutture, del Rio, ha portato il codice senza correzioni rispetto allo scorso anno. Gli uffici di Palazzo Chigi però hanno sollevato obiezioni basate su pareri del Consiglio di Stato che più volte hanno espresso dubbi sulla norma preventiva che garantisce poteri all'ANAC. Dubbi confermati anche nell'ultimo suggerimento dei giudici amministrativi. Si è discusso a lungo, i tecnici sono intervenuti e insieme si è deciso per l'abolizione del comma. Come dire, tutto è avvenuto alla luce del sole. In realtà poi è scoppiato questo scandalo. Cantone, che non ha fatto dichiarazioni pubbliche, ma in un colloquio con Repubblica, pagina 11, in un colloquio con Liana Milella, Il titolo è «Sono segnali di ostilità». Qualcuno vuole ridimensionarci. Non ci sono mai stati abusi. Sono perplesso per questa scelta, non solo per la norma specifica in sé, ma per i modi dell'intervento. Sono perplesso e preoccupato da tutta questa vicenda nel suo complesso. Chi è stato? Perché lo ha fatto? Quali obiettivi si proponeva di raggiungere? Perché ha agito di nascosto? Ecco, il punto è proprio questo. Perché di nascosto? È un chiaro segnale di ostilità. Lo definiscono all'autorità anticorruzione tagliando corto sul giudizio. Per la verità, in un'intervista al Messaggero, evidentemente già prevista su altri temi, il ministro Delrio liquida un po' la questione all'inizio, intervistato da Andrea Bassi, è un'intera pagina, pagina 5, liquida la questione dicendo così: abbiamo voluto convintamente un ruolo molto importante per l'ANAC nel codice degli appalti, dico solo che è stato fatto un errore tecnico che va corretto nel primo strumento legislativo utile. Punto. La questione è derubricata per Delrio, che poi parla d'altro, a cominciare dai cavalcavia crollati. La spesa di manutenzione straordinaria è almeno di 500 milioni l'anno, dice Delrio. In passato la media è stata solo di 150-160 milioni. Nel 2014 il governo Renzi ha varato il piano straordinario per i ponti con uno stanziamento di 300 milioni l'anno. Quando sono arrivato al Ministero ho voluto un cambio radicale di marcia, nel senso che ANAS deve spendere almeno 500 milioni l'anno. Ho capito, ma bastano per recuperare il tempo perso, visto che i viadotti continuano a cedere? No, risponde Delrio. Per questo nel 2016 abbiamo bandito gare per 1,6 miliardi per la manutenzione straordinaria, decuplicando i fondi. Sì, ma quanto tempo ci vorrà per mettere in sicurezza tutti i viadotti? In teoria, risponde Delrio, i viadotti, come quello crollato due giorni fa, non hanno bisogno di manutenzione, sono viadotti che hanno cemento intatto. Sarà la magistratura a accertare, ma è probabile ci sia stato un difetto di costruzione. Poi parla di Alitalia, parla di tante tematiche. Su Alitalia, tra i dipendenti, non pochi pensano che possa intervenire lo Stato. Lo ritengono a torto, risponde Delrio. Lo Stato potrà fare solo un'amministrazione straordinaria e per pochi mesi il tempo di accompagnare la compagnia alla liquidazione. Si dice Delrio in attesa vigile sul referendum tra i lavoratori all'Italia oggi sull'accordo per il piano di salvataggio. Abbiamo lavorato in questi mesi per evitare che i soci di Alitalia, compagnia privata, non volessero più mettere denaro nella società. Hanno deciso di mettere altri soldi, ma a fronte di un piano industriale che avesse un risparmio di costi. Se è riuscita a ottenere che questo risparmio pesasse solo per un terzo sui lavoratori. Se l'accordo non passa, gli azionisti che hanno deliberato questa disponibilità non staranno più al tavolo. E Delrio dice, e a quel punto non interverrà lo Stato e andremo alla liquidazione. Staremo a vedere. C'è un altro tema politico che ovviamente c'è sullo sfondo, la questione della legge sul biotestamento. Legge che, guardate, tanto viene approvata con un emendamento che garantisce al medico la possibilità di non accettare in piena sua coscienza le disposizioni del malato che dice voglio rifiutare l'idratazione, voglio rifiutare le cure, voglio rifiutare l'alimentazione, per cui alla solita maniera italiana, non ci sarà una chiarezza, non ci sarà mai una chiarezza in Italia in una norma. Ci saranno sempre quelle pieghe per le quali un medico dirà no, io mi posso opporre alla volontà della persona perché secondo coscienza sarà sempre così, sempre, in Italia sempre così. State tranquilli. E infatti i cattolici dicono... titolo di Avvenire, mortale confusione, e lo dicono in maniera esplicita. Il cardinal Bagnasco, capo della CEI, intervistato da Paolo Rodari, vaticanista di Repubblica, dice questa legge non ci piace, ci saranno derive pericolose, rimane un testo nel quale non possiamo riconoscerci, dice il cardinal Bagnasco, pur rilevando l'impegno con cui alcuni hanno cercato di migliorarne i singoli aspetti. Essa, legge, rischia di aprire derive pericolose. Comunque rimane lontana dall'impostazione personalistica che trova riflesso anche nella Costituzione della nostra Repubblica. Questo è il cardinal Bagnasco, quindi la Chiesa è contraria, ma ripeto, ci sarà poi un intervento, c'è già questo emendamento che verrà approvato al Senato con la possibilità di opporsi da parte del medico alle volontà del paziente, del malato. In tutto, a proposito, visto che hai citato il Senato, signori, ma che succede al Senato? Allora, Minzolini si è dimesso e sapete che per dimettersi ci vuole il voto del Senato e il Senato ha votato, ha accettato le dimissioni di Minzolini. Per cui per me il protagonista non è Minzolini, la giornata di ieri, è come vede definito da Libero il senatore Fantozzi, che non è il cognome, è proprio Fantozzi, quel Paolo Villaggio, è il senatore Vacciano che noi abbiamo avuto ospite varie volte, che ieri ha detto: beh, vedete, è il momento giusto, si è dimesso Minzolini e lui per la quinta volta ha presentato le dimissioni. Per la quinta volta, anche nel giorno in cui sono state accettate le dimissioni di Minzolini, le sue dimissioni invece sono state respinte. Il senatore Vacciano è prigioniero del Senato. Era intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: ci avevo creduto. E oggi si presenta attonito, finisce il suo discorso numero 5 per ottenere per la quinta volta il permesso di dimettersi dal Senato, nel giorno in cui tutti celebrano il fatto che Minzolini si è dimesso e l'Aula ha accettato, e invece nel caso del senatore Vacciano 90 voti a favore, 129 contrari. L'Aula non approva per la quinta volta le dimissioni di Vacciano, che dice: ce la farò nel 2030. Non chieda a me perché non accettano le mie dimissioni. Io non ho risposte, non so proprio che dire. Il comportamento dei miei colleghi non ha alcun senso. Le confesso che inizio a essere demoralizzato al quinto tentativo. Caro Mauro Meazza, andiamo a liberare il senatore Vacciano. Non ce la fa. Buongiorno caro Alessandro. Devo dire che l'impossibilità di dimettersi effettivamente è una situazione perlomeno curiosa, non tanto curiosa quanto, non so, quella che potrebbe essere l'impossibilità a prendersi giorni di vacanza supplementari, come tu stai per fare, sì, peraltro. Lunedì e martedì io sarò a casa. Sto già applicando la settimana corsa, la corta che vogliono i grillini, 4 giorni a settimana. Io sarò 3 giorni. Sarebbero 3, esatto. Adesso sì. non per fare proprio l'aritmetico, bisogna però. Bisogna sempre essere un po' più avanti, non è che... Ti stai portando avanti, va bene. Ne parliamo poi con l'ufficio del personale. Ottimo. A tempo debito, ci più sarò. Tardi, ecco. Ci sarò, non lunedì e martedì, ma ci sarò. No, vediamo su questa cosa lunedì e martedì. Allora, ti voglio segnalare però che già oggi dovremmo vedere la manovrina. Perché il decreto legge della manovrina, come dire, ha una gestazione problematica. Ottimo. E però oggi, se leggi Sole 24 Ore, vedi che dovrebbe aver trovato una sua fisionomia definitiva, te lo raccontano ad esempio, te lo racconta Marco Mobili, c'è anche una norma di garanzia per Alitalia, sai che si tratta di intervenire, allora una garanzia pubblica per Alitalia, e Marco Mobili, Marco Rogali, Gianni Trovati riassumono un po' tutte le misure che starebbero trovando posto. Oggi dovremmo finalmente sapere, giornata, dillo tu, è una giornata decisiva. Benissimo. Ci sarà ancora rispunta in qualche modo la norma per dare maxi multe da 200 euro a chi gira sull'autobus, sul tram, senza biglietto. La norma sul trasporto locale, ma molto altro, trovi tutto riassunto a pagina 7 oggi del Sole 24 Ore. Ti ricordo che oggi, essendo venerdì, tuo ultimo giorno di lavoro, sì. No, nel senso che poi vai in ferie per pochi giorni, il tuo ultimo giorno di lavoro c'è venerdì, Moda 24. Interessante le pagine di Moda 24 perché il legame tra la moda e l'export della moda italiana e anche gli acquisti sul web, cioè anche la moda, anche l'alta moda si affida fortemente al web, ma trovi tutto appunto nelle pagine di Moda 24. Ricordati che domani, anche se sei già in ferie, cominci queste lunghissime ferie, ecco, ricordati che domani c'è Plus con il Sole 24 Ore, soprattutto per investimenti ad alto rischio, come può essere comprare obbligazioni cosiddette high yield, cioè obbligazioni che rendono molto, ma con le quali si rischia molto. Leggi Plus attentamente, mi raccomando, potremmo introdurre questo nuovo avverbio nell'elenco. Chiedi a Nespoli di prendere nota, così ti aggiorna Lorenzo, lo specchietto. Prendi nota. Oh, poi oggi è una giornata ovviamente decisiva, questo lo dico io, per la rottamazione della cartella. Hai rottamato le tue cartelle Equitalia, caro Alessandro? No. Perché non rottami? Leggi la norma e tributi religiosamente, oggi scade il termine, non è solo, come dici tu, i Natali di Roma, soprattutto scade il termine per la rottamazione delle cartelle Equitalia, salvo che si riapra con una ulteriore proroga, ma questo, come diceva il poeta, lo scopriremo solo vivendo. Tra l'altro Natale di Roma, ma sai che a Roma non è festa e neanche a Milano, come ci ha detto. Sì, so che gli ascoltatori ti hanno aiutato nell'accertare questo fatto. Quindi, ma soprattutto a Milano non è festa, mi stupisce questa cosa. No, beh, ma tu oramai, devo dire, pensi molto più alle feste che non all'aspetto lavorativo. Io questa cosa dovremmo un pochino approfondirla. Segnalo, non tanto per Radio Fisco, ma anche per Radio Diritto, mi verrebbe da dire, una decisione molto importante su bancarotta e ne bis in idem. Non farti domande, caro Alessandro, però è importante, cioè nella bancarotta documentale non c'è il fatto del ne bis in idem, si può essere anche poi processati per il delitto di tipo tributario, non solo per la bancarotta, ma trovi tutto nelle pagine di norme e tributi, proprio nella prima pagina che tu leggerai come si deve religiosamente. Ti segnalo poi che prosegue l'espianto degli ulivi, perché così ha detto il TAR intervenendo sul TAP nuovamente, e di questo però a maggio si sospendono per la stagione turistica. Siamo il paese di Pulcinella. Sulle pagine di Imprese e Territori. Naturalmente io a questo punto ti faccio tanti cari auguri, non tanto per le tue vacanze, quanto per domenica pomeriggio, che vi vedrà opposti all'Empoli. Noi già anticiperemo a domani. Quindi auguri! Ma ti ringrazio molto. Tanti tanti cari auguri anche a te, naturalmente, caro Alessandro. Dove giocate? Noi giochiamo a Firenze. A Firenze. Prevedo un bel 1-0. 1-0. 1-0, va bene. Spero che ti resti di traverso e invece sia 1-0-1 per te. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, buona domenica, buone vacanze soprattutto. Grazie. E per tutti gli altri, traffico! È venerdì, si sa. Alino Milan, il ballo sotto la doccia dell'informazione. Lo so che ballate, giuro. Allora, dovrei leggere qui la notizia che riguarda il sindaco di Milano Beppe Sala, ma non lo farò perché questo luogo comune, Bob Marley, le canne, ma andate in Giamaica, imparate un po' la cultura di cosa significa, cosa c'è dietro invece le canne. Però, il sindaco di Milano, Beppe Sala, tra l'altro nel intervenire in una giornata anche in cui c'è stata una 12 ore dedicata alla cannabis in provincia di Milano, Sala, intervenendo, ha detto la classica domanda: cosa si fa al politico in quel caso? La domanda: si è mai fumato una canna? E Sala che ha detto: ma l'ho già detto, sì, l'ho già detto, ma sono stato giovane anch'io, così ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano. Eccolo qua, dunque, sul manifesto: la semina di cannabis al Pirellone, Sala, da giovane fumai anch'io. Il giornale: Milano diventa capitale anche della cannabis. Sala, anch'io ho fumato uno spinello. Mamma mia, in Italia poi questa ipocrisia. Cioè, cosa ha detto? Ha detto che si è fumato uno spinello da giovane. Ha detto la verità, ma forse è meglio dire ipocritamente le bugie. Forse è più consigliabile per i politici, quando arrivano questo tipo di domande, essere ipocriti e dire no, non è vero. Poi ci sarà anche qualcuno che proprio non l'ha fumata. E vabbè, insomma, comunque, questo è. Ma che dire, mancano solo 2 minuti. Questo io temevo il titolo sui giornali, e sui giornali c'è il telefonino causa il tumore. Ben 2 giornali, Libero e Il Giornale, aprono su questo. Ovviamente non è così, nel senso che la scienza non dice assolutamente questo. C'è però una sentenza, un giudice del lavoro a Ivrea, il tribunale di Ivrea, che per la prima volta ha dato un risarcimento a un lavoratore, tra l'altro dipendente della TIM, della Telecom, Roberto Romeo, 56 anni, che un giorno si è svegliato completamente sordo da un orecchio, tumore benigno, e dice: usavo il cellulare 4 ore al giorno incollato all'orecchio. Ovviamente dibattito, la scienza cosa dice, la scienza, troverete di tutto oggi sui giornali. La scienza in realtà non ha stabilito nessuna connessione, ma in questo caso è stato dato un risarcimento. E va bene, vi segnalo per la cronaca. Che cosa possiamo segnalare per la cronaca? La scure di Marina Berlusconi sulla Fininvest è un'interessante pagina di Repubblica di come si sta muovendo Marina Berlusconi. È un po' finita l'epoca del padre, ha venduto il Milan, e ora Marina Berlusconi, racconta Ettore Livini, vende ville, aerei, golf club, un trialberi battente bandiera delle Bermuda liquidato, un jet, insomma tutti gli sfizi. Marina Berlusconi pensa al pragmatismo e vende un po' tutti gli sfizi di papà nella Fininvest. Va bene, ma siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Federico Malerba, un'intera pagina del giornale dedicata a Buffon, che è il numero uno degli spot, perché in questo momento Buffon è in giro con 4 pubblicità, mangia patatine, combatte la forforfa, gioca a poker, e insomma, quante pubblicità Buffon! Ma chi se ne frega!